Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Che è successo? Oh, bastardo! Perché mi hai ingannata così? Perché? Calmati! Devi calmarti, fa male la bambina. Che cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato? Ma lo sai! Cioè? Sono stato con Adriano! Con Adriano? Con Adriano, con Adriano, te lo giuro! Sei un bastardo, bugiardo, schifoso, mi fai schifo! Ecco Adriano, adesso glielo chiedi a lui. Pronto, mi ha scoperto tutto, non sono stato io. Che fine fa adesso la fiducia che avevo in te? Tutti i sogni che avevamo. Che fine fanno adesso? Giulia, non ho fatto niente di male. Chi è questo con cui sei uscito? Non è nessuno. Voglio sapere chi è Carlo. Giulia, non succederà mai più, però... Che cazzo è questa? Mi ha tradita. La verità, Carlo, mi ha tradita. Dimmelo! Solo un bacio. Più. Sono bei cavoli quando una fidanzata, una moglie, un'amica, un amante, o anche un amico, un amante, un fidanzato, un marito, ficca il naso dentro lo smartphone e comincia a vedere messaggi, messaggini, tutte le notifiche, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, SMS, posta che arriva attraverso le varie caselle legali, illegali, legali nel senso ufficiali e non ufficiali. C'è di tutto nel nostro smartphone, è il prolungamento della nostra coscienza, della nostra vita relazionale, ma è anche uno spazio inviolabile. Nessuno può mettere mano, occhieggiare nel nostro smartphone per vedere se ci sono delle prove del fatto che noi siamo fedifraghi, non teniamo fede a un impegno sentimentale, erotico, amoroso, matrimoniale e via dicendo. Questo non lo dico io, lo dice la Cassazione. La Corte Suprema con il verdetto 11.467 della seconda sezione penale, che è stato depositato ieri, ricorda che il guardare, l'investigare, l'occhieggiare nello smartphone di una persona ai fini di determinarne la condotta sentimentale erotica è equivalente al reato di rapina. È come se ti rapinassi se ti guardo nel cellulare e quindi tu puoi denunciarmi in quanto rapinatore. Io trovo questa sentenza sia assolutamente innovativa dal punto di vista dell'affermazione della coscienza digitale, della cultura digitale. Dice praticamente il legislatore contro il tribunale Resame che dice: no, ma questo personaggio, tutto nasce da un ragazzo di Barletta che aveva una donna con la quale era finita la storia e lui gli è andato a guardare in maniera molto violenta nel suo smartphone, voleva la prova fumante del fatto che lei intrattenesse relazione con altri uomini. Il tribunale aveva detto del Resame che in realtà era giustificato, lui voleva dimostrare al padre della ex fidanzata che lei comunque aveva relazione con altri uomini, ma in realtà hanno detto no, sono fatti suoi, nessuno può sindacare della nostra condotta sentimentale per il fatto che oggi sono dei mezzi che tecnologicamente lasciano traccia di quelle che sono nostre derive sentimentali, erotiche, amorose, sessuali. Questo ancora di più certifica il fatto che sono cose nostre, è una nostra proprietà, è come se fosse un nostro tesoro, il nostro tesoretto su cui nessuno può mettere mano se noi non vogliamo. Io penso che questo sia un momento importante. Voi come la pensate? Voi pensate che in realtà sia lecito in una relazione qualcuno che dica: fammi vedere il tuo telefonino, vediamo un po' se mi tradisci? No, non puoi domandarglielo, perché equivale a rapinare qualcosa di questa persona. Bisogna fare affidarsi, lo so, una volta ci si fidava soltanto degli atteggiamenti, dei rossori, delle trappole. Oggi bisogna fidarsi anche di questo, del fatto che no, non te lo faccio vedere. Ah, se non me lo fai vedere nascondi qualcosa. Sono fatti miei, perché è una mia proprietà. Questo lo dice la Corte di Cassazione, quindi stampatevi la sentenza, portatevela dietro. La prossima volta che come pegno d'amore viene richiesto: fammi vedere i tuoi messaggi, fammi vedere WhatsApp, fammi vedere lo smartphone, tu dici no, guarda, c'è la sentenza, rapina, non ti faccio vedere niente, tanto non ho nulla da nascondere, millantate pure questo, ma non ti posso far vedere nulla perché questo la legge mi permette di poterti rispondere. 800240024. Avvocato Guido Scorza, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Docente di nuove tecnologie, autore del libro Meglio se taci, scritto assieme a Alessandro Giglioli per Baldini e Castoldi, l'abbiamo colta in treno fugace giorni fa, ma oggi torniamo su questa sentenza che io trovo interessante. Lei ha avuto modo di guardare le prime informazioni che sono uscite e come giudica lei questo tipo di atteggiamento della Corte Suprema? diciamo, ho letto qualcosa, non ancora la sentenza. Immagino che la rapina, che come dire, romanticamente è anche una bella idea, mi rapini della mia intimità, sia nella realtà legata in questa vicenda alla circostanza che, se capisco bene, l'ex di turno si è proprio introdotto dentro casa della sua ex fidanzata e si è impossessato fisicamente dello smartphone, sia pur al fine che lui riteneva, come dire, nobile o giustificato da quello sì, che si sentenza dice che il bene, lui ha inciso sul bene primario dell'autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane. È come se gli fosse andato in casa a rubare un oggetto, perché gli voleva rubare la sua intimità. E questo è, come dire, fuor di dubbio, ecco, non so poi quali siano le motivazioni che hanno spinto i giudici a chiamarla rapina, a ritenere che sussistesse la rapina, forse qualcosa di più rispetto al semplice accesso a quelle informazioni, ma certo è che comunque quella è corrispondenza privata e privatissima della ex, alla quale personaggio in questione non aveva alcun diritto di accedere, pena appunto violarne quella che si chiama privacy e che i giudici chiamano giustamente anche autodeterminazione alla propria sfera sentimentale piuttosto che sessuale. A me la fermo un attimo, avvocato Scozza, no, perché il solito furbacchione mi scrive, dice, già parti male, non è il guardare ma il sottrarre il telefono. Per guardare il telefono bisogna prenderlo in mano, è chiaro, non è furto di telefonino, non è impossessarsi in maniera momentanea il telefonino. Guardiamo, non è che gli ha rubato il telefono, ha preso il telefono in mano per guardare questa cosa qua, quello è reato. Se no sarebbe semplicemente la sottrazione, non so, di un orologio o di un paio di scarpe o di qualunque altra cosa, che naturalmente è una rapina. C'è qualcosa molto di più in quel telefono, c'è parte della personalità del possessore del telefono, questa è la novità. Non mi soffermo nemmeno su questo tipo di appunto, mi fa un ascoltatore, è chiaro, bisogna prendere un telefono in mano se la persona non te lo vuol dare, tu non puoi prenderlo in mano e guardargli questa cosa, perché è rapina. Non puoi guardarci dentro, nella realtà una volta si diceva occhio non vede, cuore non duole, oggi probabilmente, ecco, le tentazioni per un occhio che voglia vedere, che voglia togliersi dubbio da gelosia o d'amore o da sentimento, sono tante di più, e probabilmente questa sentenza, a prescindere appunto dalla declinazione e dalle ragioni che spingono i giudici a non dire, come spesso si è detto, c'è una violazione della corrispondenza, c'è una violazione della privacy, ma andare oltre, ecco, è una buona occasione per ricordarci tutti quanti che la coppia o la ex coppia non sono una dimensione altra rispetto a quella della vita di chiunque di noi, che le regole si applicano anche. Ecco, in termini proprio di pena, cosa si rischia in questo caso, avvocato? Se la sentenza della Cassazione diventasse ormai giurisprudenza, cosa si rischia? Ma io appunto non ho letto la sentenza, non so se effettivamente la Cassazione stia dicendo che ogni qualvolta qualcuno prende in mano il telefonino di una ex o di una compagna per guardarci dentro la rapina, forse non è esattamente così che i giudici della Cassazione stanno dicendo. Certo, se così fosse la pena sarebbe elevata, in questo caso mi pare addirittura 3 anni. Quel che si può dire per certo è che guardare dentro quel telefonino significa violare almeno la corrispondenza, per certo la corrispondenza privata della persona che lo possiede, alla quale quel telefonino appartiene, e questo almeno fino ad un anno di galera può sicuramente rappresentare. Quindi direi, prendo quello di cui sono convinto, per quel che ho letto sin qui, i giudici della Cassazione giustamente dicono che sia la ex che la finalità sia ritenuta più o meno nobile o forse d'onore, come si sarebbe detta una volta, e cioè voglio dimostrare al padre che era lei a tradire me, conta poco, ficcare il naso dentro il telefonino della ex o della compagna o della moglie che sia, senza il permesso di quest'ultima può costare la galera. Questo è quello che per certo oggi i giudici della Cassazione ci ricordano, secondo me dando peso all'immateriale, nel senso questo è esattamente il termine, esattamente, avvocato, quello che voglio dire, dando peso all'immateriale, perché continuano a insistere a dirmi, ma l'ha portato via il telefono. Ma se io a una mia fidanzata o mia moglie o qualunque altra persona prendo un qualsiasi oggetto, prendo l'orologio semplicemente a vedere l'ora e me lo porto a casa e poi glielo restituisco, non è un reato almeno per la Cassazione, è altrettanto grave quanto prendo il telefono, perché c'è qualcosa di immateriale che ha un valore aggiunto nel quale non posso mettere naso. Questa secondo me è la differenza. Cominciano per la prima volta a dare un valore reale e concreto a quelli che sono dati digitali, finalmente, che abbiamo sempre considerato nelle nostre tante chiacchierate alla radio, che ancora non c'è la percezione giuridica del valore del digitale, o perlomeno c'è, ma è piuttosto controversa. In questo caso il valore digitale è il valore aggiunto a quel telefono, perché è la proiezione, è l'estensione della personalità e dell'intimità di quella persona, o sbaglio? È il valore del contenuto e non del contenitore, ecco, fermo restando che poi non so se in questa vicenda spesso avviene, la Cassazione è un giudice di legittimità, è un giudice che sta lontano dai fatti, quindi spesso avviene che ci sia una corsa verso l'astrazione, quindi non so quale fossero effettivamente i fatti all'origine della vicenda. Registro però l'epilogo, e l'epilogo è quello, che la si chiami rapina o che la si chiami in altro modo, di giudici che in ogni caso dicono anche quei messaggini apparentemente poco significativi, anche quello smartphone che tendenzialmente più un giocattolo che non qualcos'altro nella dimensione quotidiana, ha un valore perché è rappresentativo della sfera intima della persona, e quella sfera è tanto preziosa quanto altro genere di bene. Fermiamoci un istante, avvocato, che do il traffico, già c'è Paolo in attesa, altri ascoltatori stanno chiamando. 800 24 00 24, vi è mai capitato che qualcuno mettesse il naso nella vostra sfera privata racchiusa dal vostro telefono? Qualcuno ve l'ha chiesto? È un pegno d'amore consueto, fammi vedere con chi ti messaggi, sennò vuol dire che mi tradisci. Beh, oggi bisogna fare un pochino più di attenzione, perché c'è un valore molto più profondo rispetto a quei messaggi, non è un gioco. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Otto zero zero ventiquattro, stiamo parlando di una sentenza alla Cassazione di cui c'è soltanto notizia in qualche anticipazione giornalistica, adesso la vedremo con più attenzione, però mi sembrava importante cominciare a parlarne perché aggiunge un valore in più rispetto al semplice reato di violazione di corrispondenza, che una persona che occhieggia nelle email di un'altra persona impropriamente viola il segreto della sua corrispondenza, già un reato. Qui un ragazzo che era entrato in casa, sarà impossessato di un cellulare di una persona, e siamo d'accordo, ma era finalizzato alla ricerca della prova fumante del tradimento, dice no, questo è un non esiste assolutamente una giustificazione legata a questo fatto, perché è una sfera talmente personale e intima che è inviolabile. Quindi il valore della propria anima digitale è un valore che è tutelato leggermente di più rispetto a prima. Avevamo un ascoltatore, in questo momento è caduto, riprendo a parlare con l'avvocato Guido Scorza, che è un docente di diritto e nuove tecnologie. Avvocato Scorza, vediamo di capire quale potrebbe essere la differenza rispetto a una semplice violazione della corrispondenza, che l'occhiata fugace al telefono senza che nessuno se ne accorga, ma al momento che tu te ne accorgi e te lo rinfacci, questo era un reato già da prima. Quale potrebbe essere, oppure non so, lascio adesso il mio computer è aperto, acceso, senza nessuna password, se mentre sto in diretta un collega potrebbe guardarmi Facebook, Twitter, tutto quello che vuole, fatti suoi, ma io per questo potrei in qualche maniera rivalermi verso di lui? Diciamo che allora, in un caso e in un altro ci si può rivalere, se rivalere significa, ammesso che un danno lo si soffra, chiedere il risarcimento dei danni, quindi a prescindere dal fatto che quel soggetto rischierà la galera, potergli chiedere anche un risarcimento del danno sofferto. Qui la cifra distintiva tra quello che ci dice, per come ce la raccontano la Cassazione, e la partita che usualmente si gioca in un'ipotesi di questo genere, cioè di chi indiscretamente guarda dentro alla posta elettronica di qualcun altro, è una cifra data dalla sanzione, in questo caso assai più salata. È ovvio che se parlo di rapina arrivo fino persino a 10 anni, se parlo di violazione di corrispondenza direi mi fermo sulla soglia, al massimo rischio un anno di galera. Quindi diciamo che la differenza qui è che la travata d'onore, come probabilmente ha ritenuto fosse giustificabile il ragazzo che l'ha posta in essere a Barletta, cioè il protagonista di questa vicenda, gli costerà molto più cara di quanto non gli sarebbe costata se i giudici gli avessero dato una bacchettata sulle mani, gli avessero detto è una cosa che non si fa solo e semplicemente perché nessuno può guardare dentro la corrispondenza di qualcuno. Hanno voluto dare una cosa più. Poi una cosa solo, avvocato, fermiamoci un attimo perché adesso mando qualche telefonata, però si aspetti la mia domanda fra un istante. Visto che ormai la materia del diritto matrimoniale, soprattutto gli avvocati che si occupano di separazione e divorzio, è tutta basata su prove portate di SMS, messaggi, intercettazioni dei telefonini, come la mettiamo con questa fetta del diritto? Sentiamo Luca intanto. Luca. Buongiorno Nicoletti e buongiorno anche all'avvocato. Volevo porre un'altra questione, perché questa sentenza provoca poi apre degli scenari strani. Io ancora non ho questo problema perché mio figlio è molto piccolo, non ha uno smartphone. Cosa succede al genitore che controlla lo smartphone del proprio figlio per vedere dove va, cosa fa e se è tutto vero quello che gli racconta il figlio? O addirittura chiede le password della Gmail per vedere, Gmail ci traccia ogni passaggio per capire dove va il figlio. Luca, avvocato, rispetto a questo, avvocato Scorza, questa domanda è quella che avevo fatto prima io, che più o meno è la stessa cosa. L'uso, diciamo, o giudiziario in un caso di problemi matrimoniali, di separazione, o un genitore vuole controllare il figlio, può farlo al di là della volontà del figlio? Ecco, al di là della volontà del figlio, il genitore, e salvo naturalmente l'esercizio della sua potestà genitoriale, quindi è abbastanza naturale che il figlio, come dire, nel mondo dei bitcoin, quello di ieri degli atomi, soffra il controllo del genitore, ma questo naturalmente non fa per venir meno il fatto che il padre o la madre debbano poi fare i genitori e controllare contro la volontà del figlio. Ma certo, diciamo che se quel figlio fosse maggiorenne e in grado quindi di autodeterminarsi fino in fondo, il padre che guardasse dentro, la madre che guardassero dentro la mail o l'account Google, o che tracciassero attraverso un'applicazione tipo Find My Phone o non so cos'altro gli spostamenti del figlio nella città, ne violerebbero certamente la privacy. L'amore materno e paterno non giustifica nemmeno questo tipo di invadenza. Giustificano almeno quando il figlio è ormai in grado di autodeterminarsi, è persona adulta, è persona. Fermiamoci un secondo, Arianna, buongiorno. Arianna. Sì, buongiorno, sì. Padre. Io volevo dire semplicemente che comunque se uno non ha niente da nascondere, il telefono lo può lasciare tranquillamente in mano al marito. No, per esempio, scusi, non sono d'accordo, poi Arianna, mi permette? Sì, perché? Adesso glielo faccio dire. Dica il suo punto di vista, poi le dico il mio. Perché mio marito, per dire, ha password delle mie mail, a tutto lui, anzi mi gestisce tutto lui, perché io per motivi proprio non ho proprio tempo, e mi gestisce tutto lui ha le password delle mie mail, lui usa delle app sul mio cellulare, ma tranquillamente, proprio senza nessun problema, perché comunque io non ho niente da nascondergli. Scusi, e lo stesso io faccio con lui. Ok, va bene, due punti di vista. Primo, lei potrebbe aprire altri 50.000 account di posta elettronica e suo marito non saperlo, e quindi suo marito ha un controllo illusorio sulla moglie. Seconda cosa, perché deve essere obbligato comunque a giustificarmi e avere un'impossibilità di avere anche relazioni clandestine, amori, amanti, quello che voglio? Perché devo, con questa prova naturalmente, come mettersi la cintura di castità, quello ti guarda il cellulare, tu puoi sì comprarti un altro cellulare, aprire altre caselle, perché una persona deve avere il diritto di avere il controllo continuo sul nostro nitore comportamentale, sulla nostra buona condotta? Lei capisce che comunque è un ricatto grosso, lei è una fetta di sua libertà d'espressione che comunque è bloccata. Poi può usarla o non usarla? Dal momento in cui una persona è sposata, si presume che non abbia intenzione di avere altre relazioni clandestine in giro per il mondo. Vabbè, no? Questo è il suo punto di vista, mi giustifica e mi fa capire tutto. Antonio. Buongiorno a tutti. Sì. Niente, io sono d'accordo con la radioascoltatrice di poco fa, perché se quel signore è stato condannato come per rapina, mia moglie dovrebbe prendere l'ergastolo, perché Sembra che mi controlla il telefono, Facebook. Sì, ma se lei volesse farsi cose per conto suo, lei può prendere un altro telefono, aprirsi altri account. È sempre impossibile il controllo totale. È un'illusione, è un altro inganno amoroso dire: ah, io ti faccio vedere tutto perché sono limpido, lascio il telefono, tanto non nascondo niente. Chi ha da nascondere, nasconde. È sempre stato così. Io non glielo faccio vedere, è lei che se lo prende il telefono. Vabbè, lei sapendo che lo prende la moglie, in quel telefono non metterà mai nulla che possa creare problemi in famiglia, questo è chiaro. Non ho problemi perché, non avendo nulla da nascondere. Ma naturalmente, nessuno di noi ha nulla da nascondere, questo è dato per scontato. Comunque abbiamo capito che un nuovo mondo si sta aprendo e anche il legislatore sta cominciando a metterci gli occhi. A domani, anzi no, a lunedì.